Vi diamo il benvenuto alle nostre iniziative. La biblioteca, come sapete, ogni settimana, lunedì e giovedì, si trova qui in questa sala per presentare, far incontrare, favorire l'incontro con autori e autrici del territorio, ma anche di altre regioni che hanno qualcosa da proporci, che per noi sono interessanti perché ci aiutano. Così ci stimolano nella lettura, nell'aprire gli orizzonti e quindi leggere i libri, che per noi è la missione fondamentale. Questa sera abbiamo con noi Gianfranco Giacomuzzi, che mi sa conoscono i signori e le signore in sala. Gianfranco Giacomuzzi è innanzitutto un nostro utente, possiamo dirlo? Svegliamo il mistero, perché è una persona che frequenta da tantissimi anni la biblioteca e ha già presentato presso la nostra struttura un libro che è Il Sergente Bubi. Esatto. Ancora anni fa, sì. Sì. Vabbè, anche ambientato a Molveno. Anche ambientato a Molveno, insomma, si è capito che Molveno è un posto. Per il nostro autore ha un ruolo e un'importanza particolare, e come dargli torto, insomma, Molveno col lago è veramente un territorio, un paesaggio suggestivo. Non a caso Gianfranco Giacomuzzi, che oltre a scrivere dipinge, insomma, è un animo poliedrico, sensibile, che si esprime in tante maniere, sempre in maniera molto bella, ha anche la capacità di ritrarre questi paesaggi suggestivi con la tecnica dell'acquerello, e qui a stasera ha portato infatti alcune copie di suoi quadri, sempre ambientati, che ritraggono Molveno, il Brenta oppure dei prati che ha trovato, sì, lì, che lo hanno particolarmente così colpito. E si parlava prima, si rifletteva così fra di noi, il protagonista anche di questo racconto, Francesco, è un protagonista che però dietro il quale si nasconde, è un transfer, ecco, un avatar, sì. Di Gianfranco Giacomuzzi. Ci sono molti aspetti autobiografici che del resto fanno parte dell'attività dello scrittore, vero? Già. E faceva delle riflessioni sulla componente autobiografica in generale, se le vuole ripetere, visto che me l'ha dette prima ed erano interessanti le sue conclusioni. Ah sì, dicevo che molti libri che sono molti libri molto famosi, libri che abbiamo letto fin dal passato, fin da quando eravamo piccoli, in genere si vede come sono concentrati su un personaggio, magari solo, no? Il personaggio principale, e pochi altri. I libri buoni li vedo così, li vedo tutti concentrati, il racconto, insomma, è concentrato sul personaggio principale, no? Il quale può interessare il lettore o anche no, magari, ma quello che è interessante è che il lettore poi magari si identifica col personaggio principale, o vuole identificarsi, o si immagina di identificarsi. Insomma, abbiamo il solito eroe, no? Che alla fine del racconto, alla fine del film anche, no? Vince, no? Il solito eroe che vince, no? È il vincitore. Ecco, allora questo rende molto interessante la lettura, no? Perché la lettura è una cosa che soddisfa, nel senso che se sono argomenti che ci interessano, allora diventa qualcosa di diciamo, che può stimolare, con il quale ci stimola. A questo proposito di leggere, volevo prima farvi vedere, leggere una cosa, no? Molto interessante, che l'ho vista a casa e l'ho portata. So che adesso non viene sta roba, ma anche qui c'è il libro. No. Qua. Ah, ecco qua. Ho trovato una cosa a casa mia, che l'ho attaccata sull'armadio, sulla credenza, no? Qui si vede una ragazzina di un adolescente, insomma, che è seduta su un prato, poi lo potete vedere, e c'ha un giornale aperto, no? Sta leggendo evidentemente. Poi in cima qua ci sta scritto: leggere è il cibo della mente. Pensate che belle parole, leggere è il cibo della mente, è il cibo della mente. Ma poi qui allora c'è scritto sotto qualcosa che adesso voglio leggervi, è interessante. Chissà dove ho messo gli occhiali. Vuoi che le leggo io? Sì, anche magari. Sì. Leggere è un viaggio nello spazio, nel tempo, nella fantasia. Dalle righe di inchiostro arrivano emozioni che ci coinvolgono, ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio noi stessi. Leggere è un invito a un'altra avventura, a un'altra scoperta, un grande privilegio della nostra vita, un modo per informarci, per creare, per conoscere il mondo. Leggere è il cibo della mente. Passa parola. Ecco, quello che è interessante anche è il fatto che qui ci sia in fondo, qua a destra, il timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, primo della Repubblica Italiana. Allora io mi sono detto, ma guarda un po', effettivamente in Italia c'è bisogno di fare questa pubblicità, perché non è che ci siano molti lettori, i lettori dipende da che letture, no? Per esempio il genere narrativa in Italia è poco letto dagli uomini, no? Io ogni volta che vado al mare, vado in spiaggia, vado qua, vado là, no? Vedo che se c'è qualcuno che legge un romanzo è una donna. uomini pochi, no? La gazzetta. È nella top ten. No, gli uomini poi si incontrano e parlano di automobili o parlano di sport. No? Sì. Agli uomini il racconto, la narrazione, conta poco. No? Almeno in Italia è così, no? Insomma. Certo, tutti gli editori si lamentano che si legge poco e quindi bisognerebbe incentivare, bisognerebbe incoraggiare. Diciamo che nella media invece Gianfranco Giacomuzzi invece, non solo legge, scrive e racconta delle storie. Sì, vero? Siccome io mi sono fatto delle note per dire qualcosa. Allora, la questione di leggere, no, è un fatto artistico, ha a che fare con l'arte. E noi ci circondiamo, ci vediamo che com'è la nostra vita normale. La nostra normale è fatta di lavoro, perché è ovviamente necessario lavorare per vivere, quello siamo d'accordo. Ma se in fin dei conti, se guardiamo bene, finito il lavoro, che cosa facciamo? Ritorniamo a casa. O andiamo da qualche parte per divertirci o vedere qualcosa di bello. In casa ci decoriamo le pareti coi quadri, o ascoltiamo musica, o guardiamo film alla televisione, o appunto leggiamo qualcosa così. E tutto quello che si fa al di fuori del nostro lavoro ha a che fare con l'arte, quindi la pittura, quindi la letteratura, la poesia e tutto quanto. La musica. E questo è interessante in quanto è un qualcosa che viene dal nostro interno, dal nostro io profondo. È l'espressione artistica che ogni uomo possiede. Tutti noi siamo nel piccolo artisti, tutti quanti. Ogni uomo è un piccolo artista. Si vede che è un artista fin dai tempi remoti delle caverne. Dipingevano nelle caverne uomini selvaggi, e quindi vedete che questo sentimento esiste da tempi immemorabili. E quindi questa esprimersi attraverso l'arte sarebbe quello che Freud anche, no, nella psicanalisi chiamava l'alter ego. Noi abbiamo un alter ego, siamo un doppio, siamo due persone. E ecco perché ci divertiamo a fare arte, perché è la nostra così intima necessità. E quindi viene da questo fatto. Quando Freud scoperse o fece studi di psicanalisi, no? Poi ci fu una grande rivoluzione, perché mica prima si credeva in questo. Che noi avessimo una doppia vita, un doppio corpo. non si credeva neanche. Tanto è vero la rivoluzione fu, tanto è vero fu che nacque poi una nuova letteratura. Tutti conosciamo come quei libri Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per esempio, che parlava appunto di questa persona che quando è il Dr. Jekyll è quello buono, quando è il Mr. Hyde è quello cattivo, no? È sempre la stessa persona. Come vedete, la interrompo un attimo, così ci diamo un po' di, ci spezziamo un po' il ritmo, perché come vedete Gianfranco Giacomuzzi parte e fa delle riflessioni, ha una sua profondità, una sua visione di pensiero, e mi piace tantissimo questa cosa che lei riconosca in ciascuno di noi un potenziale artistico. Ecco, questa ricerca del bello nella vita è consolante. E a questo proposito volevo leggere un piccolo pezzettino del suo libro, dove Francesco, che è il protagonista, arriva a Molveno. Arrivò al campeggio salendo lungo il sentiero che si arrampicava in collina fra le erbe. Tutto intorno, fuori del paese, era buio pesto, solo la tenda luccicava nella luce stellare. Si fermò a guardare le stelle. Si fermò a guardare le stelle che si vedevano nitide e brillanti ed ammiccavano come cuori pulsanti. L'orsa maggiore, l'orsa minore, con l'ultima stella della sua coda che è la stella polare. Si configuravano come forme geometriche perfettamente visibili e utili per orientarsi nello spazio siderale. L'aria era fresca e profumata, tranquilla ora di notte senza un filo di vento. Aria balsamica mescolata all'odore dell'acqua che veniva su dal lago e a quello delle erbe del prato. Che bella è la notte e la sua pacata misteriosità. È l'ora della meditazione, della preghiera. Oh Lumi, cosa fa un uomo solo nel mondo? La notte, che alla conclusione del giorno gli ricorda il momento della propria conclusione. Ecco, essere, vieio. Prego. Vieio? Cos'è che c'è scritto qua? Che... Viejo. È una parola spagnola, un sacco di lingue. Viejo. Che è per lui la sintesi di tutta la vita, ma c'è una speranza che va oltre il buio del cielo stellato, è oltre quel buio che c'è la luce. Decise infine di andare in tenda e coricarsi. Sotto la tenda si sentiva protetto dal mondo esterno, troppo grande ed inquietante per restarci tutta la notte. Gli uomini hanno bisogno di un tetto sotto cui ripararsi, come così pure gli animali, di un covo, di una tana, di un nido, gli uccelli. Si tolse le scarpe e i pantaloni, si infilò nel sacco a pelo, rimase coricato ad ascoltare i rumori della notte. Erano rumori lontani, appena percettibili, prevaleva un gran silenzio. Ogni tanto sentiva le barche del porticciolo sotto la collina che si urtavano leggermente l'una con l'altra, mosse da una lieve corrente. Poi sentì il verso di qualche uccello notturno. Pensò alla ragazza che aveva conosciuto al bar. Era molto simpatica e carina, amichevole e gioviale. Forse si era innamorata di lui, dato che l'aveva invitato per la sera del giorno dopo. Era l'amica dell'oste, ma non viveva con lui, perché quando se ne andò via dal bar, uscì anche lei con l'amica per andare a casa loro. Ecco, e poi finisce questa prima parte. Prima di addormentarsi, pregò il Signore che lo proteggesse durante la notte. Come vedete, questa prima parte, ecco, c'è tutta un'ispirazione, no? Anche una riflessione, questo chiudere una giornata e aprirsi anche così a delle riflessioni, tra virgolette, universali, spinti anche dall'ammirazione del cielo e di dimensioni completamente diverse, forse di cui non sappiamo neanche, non siamo neanche in grado ancora di renderci conto, visto che lo spazio, non dico che sia infinito, ma insomma... è sicuramente incomprensibile per noi, no? È quello che è il bello della nostra vita, quello. L'espressione artistica è il bello, che è quello che di bello abbiamo, perché si capisce che la vita così, come dico, può, naturalmente il lavoro può anche essere una roba piacevole e tutto quello che si vuole, però non è un'espressione. Dipende, magari se uno fa l'artista di professione, ecco, allora, ecco, allora c'è dentro in pieno, allora non si annoia sono mai. Sono pochi privilegiati che riescono. Allora non si annoia mai. Perché per fare l'artista, diciamo, dal punto di vista per essere una professione vera e propria, che ti guadagni da vivere, bisogna avere successo, no? Perché se no non si ha. Però ci sono molti che hanno successo più che più che uno, insomma, che hanno in questo mestiere successo e quindi possono fare pittori, scrittori e così via. E tutti ne possono farlo, ma quello che ribadisco è che tutti, ognuno di noi ha dentro qualcosa di altro, di artistico, di qualcosa a cui aspira uno, magari non lo raggiunge mai nella vita, ma se si sforza ci va vicino a una felicità, diciamo, a una felicità vera e propria. È difficile, si capisce, e poi bisogna anche avere una preparazione e poi l'interesse, insomma, ma l'interesse e la preparazione viene frequentando, facendo, appunto. È bello anche, belli anche sono gli sport, per esempio, gli sport che per certi sono anche una professione, gli sport. Per altri, per la maggior parte di noi è appunto un divertimento, anche è un motivo di gioia e di espressione artistica. Diciamo che anche da questo racconto si può cogliere come lei ami non solo l'arte in tutte le sue forme e la pratichi, perché appunto lei scrive, dipinge, ma ami anche molto il contatto con la natura, e questo contatto lo cerchi attraverso la pratica dello sport o comunque delle camminate, le gite nel bosco, sì, le nuotate nel lago, cioè questo contatto fisico con l'ambiente che emerge in più di un'occasione nel protagonista, che ha dei risvolti autobiografici molto forti, molto vicini a quelli. Il contatto con la natura è primario, no? Per me, no? E dicevo, l'allarme dietro dell'opera che mi viene installato, e volevo allora, insomma, dicevo, diventa anche una purificazione, una catarsi, come si dice, no? L'esprimersi attraverso l'arte, no? E diventa un qualcosa che è, ecco, appunto, che purifica, che fa gioia, no? Oppure poi naturalmente le opere d'arte, nel caso della scrittura, dei romanzi, possono essere anche emozionanti, e quindi quello li rende anche interessanti, l'emozione che uno prova. E come dicevo, anche questi personaggi che possono essere talmente pregnanti così nella mente poi del lettore, che diventano personaggi che ci si ricorda. Oggi io, prima di venire qui, a forza con la testa sempre nei libri, mi prendo un vecchio libro che avevo già letto, no? Che bello rileggere questa roba, che mi piaceva, no? Io l'avevo lasciato lì, ma da tanto tempo. Vedi che non è che un libro lo leggi e lo pianti lì, se è bello lo riprendi, sì, o prima o poi, no? Sì. Le poesie, poi scrivo anche poesie, e le poesie poi quelle sono rimangono sempre belle. Quello. La ritrattiamo per il 21 marzo, che è la giornata mondiale della poesia. Ecco, sì. Ah, lì vengo. Ecco, c'è il 21 marzo. Fatto. Magari ne porta qualcuno. Benissimo. E allora, cosa dicevo? Cosa stavo dicendo? Allora, io intanto, finché lei ci pensa, leggerei un'altra piccola parte dove lei torna indietro nel tempo e racconta, o meglio lei, Francesco, che è il protagonista, torna dietro nel tempo, racconta di quando era bambino e di cosa faceva Molveno, com'era Molveno. Ah, ecco, qui c'è un film, il racconto è ambientato nell'ambiente, sì, nell'epoca giorni d'oggi, però lì qui c'è un flashback, c'è un ritorno al passato. Adesso vi leggo il flashback. Ritornò indietro nel tempo quando era un bambino di 7 anni. A Molveno ci andava d'estate con i suoi genitori e i fratelli. Allora i ragazzi erano liberi di girare per la campagna e giocare a loro piacimento. Non era come in città, dove erano costretti a stare nei cortili di casa. Era una vita bucolica e semplice. Facevano il bagno nel lago e andavano in barca e a pescare. Osservavano il lavoro dei contadini quando falciavano l'erba con la falce lucida e scintillante, e faceva un rumore metallico quando veniva affilata. Seguivano le mucche che trainavano i carri carichi di fieno. Ogni tanto passavano greggi di pecore e di capre davanti alla casa dove abitavano e sentivano suonare le campanelle che avevano appese al collo. I ragazzi si costruivano archi e spade di legno e giocavano a combattersi, e con rami biforcuti ed elastici facevano pure le fionde. In spiaggia non c'era quasi nessuno, solo qualche turista che prendeva una barca a noleggio dall'unico barcaiolo. C'erano 4-5 alberghi in tutto. Le bianche vele che si vedevano percorrere il lago appartenevano a pescatori di professione, quando il lago era ancora pescoso. I ragazzi andavano pure nel bosco a raccogliere funghi e fragole che la tata preparava con la polenta e con lo zucchero. Era, insomma, una vita campagnola e pacifica. Quando calava l'ombra della sera, si sentiva suonare l'Ave Maria e recitavano il rosario. Il cuore di Francesco fu scosso da questo sentimento di nostalgia al pensiero di quei giorni lontani. Gli tornò pure alla mente che in quel paese, quando aveva 7 anni, aveva fatto la prima comunione. Sì. Io ho detto qualcosa del motivo per cui si scrive, è un'espressione artistica, e viene fuori qualcosa di molto buono. Come dicevo prima con la signora Valeria, chi si può dimenticare personaggi come Don Abbondio, per esempio, no? Lo si prende come esempio, come paragone tante volte, no? Tu mi sembri un buon Abbondio, così. Personaggi che rimangono incisi, insomma, nella storia, no? E quindi ecco il valore, no? che ha la scrittura e l'arte in genere, perché tutti gli artisti che hanno fatto, ma guardate a Roma, che so io, la Cappella Sistina e tutto quanto, gli autori stessi sono morti da un pezzo e l'opera resta qui, rimane, ha questo pregio di rimanere assolutamente, quindi ecco perché è importante, no? E dà anche, diciamo, una specie di pagella per noi, no? che ci rende validi. Parlando del romanzo che la signora adesso ci ha letto qua, in genere, né? Io appunto qui abbiamo diversi elementi, no? I boschi tutti circondati da boschi verdi meravigliosi, né? Poi abbiamo anche le rocce, le montagne rocciose del gruppo delle Dolomiti, sì, del gruppo di Brenta delle Dolomiti, e quindi poi c'è anche un'infinità di flora, i fiori e tutto quel che si vuole, prati, no? E animali anche selvatici, così, caprioli, camosci, e poi c'è il lago, che ovviamente oggi purtroppo non è più gran balneabile, ma insomma è abbastanza bello. Qui ho portato, ce n'ho per fuori, solo una cartolina di com'è, lo potete vedere dopo, no? E di com'è questo lago oggi, ancora oggi, così, sì, veramente idillico. E poi c'è un ponte particolare, sì, no? Qui questo è il nuovo ponte, perché il vecchio ponte era dritto, questo l'hanno fatto nuovo, no? Però era un ponte storico? Sì, era un ponte che collega dove c'era, o dove c'è ancora, il Grand Hotel, che era allora il Grand Hotel. Oh, Molveno è un posto che mi viene in mente adesso, frequentato fin dai tempi in cui il Trentino era Austria, frequentato da personaggi come Sigmund Freud, per esempio. Freud andava a Molveno in vacanza, al Grand Hotel, al Wettergarten. Poi c'erano in tempi più recenti, c'era Dino Buzzati che andava all'albergo a Molveno, poi c'era anche Moravia e poi c'è stato anche Cesare Maestri, poi è quello che scalava, lo scalatore. È stato un posto frequentato appunto da turisti austriaci, quando il Trentino era ancora Austria, comunque, a quei tempi era ancora austriaca. Allora, qui tutta questa, diciamo, bellezza naturale ho cercato di trasportarla mi sono messo a fare degli acquarelli, e allora cercando di rendere visibile quello che sta scritto, di renderlo anche visibile, no? E per fare questo mi ha aiutato molto la signora che qui adesso voglio presentarvi, Caterina Zogler, prego, la quale mi ha molto aiutato. Si può dire che l'abbiamo fatta, sapete, come quelli che sono nel piano in due, no? Sì. In due, no? Con due mani, voglio dire, no? una mano a io, una mano a lei, no? Allora, Caterina, se vuole venire a dirci qualcosa o dica qualcosa. No, lei molto volentieri. Ha qualche commento da fare? qualcosa. Noi ci siamo conosciuti ancora che faceva corsi all'UPAD e poi sono andato da lei personalmente perché non riuscivo da solo ad andare avanti. Ecco perché abbiamo fatto queste cose a due mani, no? Cioè, una dell'una e una dell'altra, però non capisce. Ma no, dato solo. Allora, questo qua, per esempio, che è il primo che abbiamo fatto di Molvino, era forse il più riuscito. Ne abbiamo poi dipinto da una vecchia fotografia. C'ho un albo grosso così a casa, tutto di fotografie dei tempi passati in bianco e nero di Molveno, e noi l'abbiamo fatto a colori, bello. Ecco. erano case tutte ammucchiate, vedete, c'era un agglomerato di case vecchie, tanto che Molveno nel 1923 prese fuoco, si bruciò tutto il paese. Qui i tetti erano pieni di paglia, sì. I contadini venivano con i carri e tiravano sul fieno sulla soffitta, no? E lì per scoprire un incendio era un momento, e deve essere successo una roba così, e anche tante volte autocombustione, no? Qui bisogna vedere, queste soffitte erano tutte piene di fieno. I contadini tenevano le mucche in casa, sotto, no? Sotto tra il fieno, e quindi erano paesi, era una vita. Noi però, per i contadini era una vita dura, per noi ragazzi ci divertivamo. Ricordo. Ecco, questo anche nel racconto ci sono questi continui, cioè il flusso narrativo dove si racconta la storia che inizia, uno sviluppo e poi una fine, come in tutti i racconti, però c'è un continuo ritornare indietro al passato, a com'era Molveno, a cosa faceva Francesco da bambino, e vi leggo ancora qualche riga. Ora era ansioso di tornare al campeggio, era stanco dopo tutta una giornata di cammino, perché è andato a fare una gita, un'escursione, no? Il nostro protagonista. Arrivò fino alla vecchia pieve, dove un tempo tutto intorno c'erano campi di patate, di segala, e dove ora invece sorgevano alberghi. Pensò a quando era ragazzino, che si era nascosto nella segala con Gabriella e avevano visto la lepre. Quanto tempo era passato da quando aveva 7 anni? Tempo di fanciullezza, di spensierata innocenza, via fra il turbine di tutta una vita e ad arrivare alla senilità quando la vita ridiventa come quella dei primi anni. E qui c'è una frase che mi fa impazzire. Un detto trentino dice: a 7 anni in putel, a 70 sempre quello. Sempre quello. Bellissima. Stasera è la serata degli aforismi. Sì. Poi davanti alla tenda si sedette a riposare, era stato magnifico, guardò il lago del quale aveva fatto il giro completo, nell'imbrunire si preparò qualcosa per la cena, quella sera non andò al bar a trovare gli amici, pensò solo a Vizzena fino a quando spuntarono le stelle e con esse dritte sopra la testa andrò a riposare. Ecco, c'è sempre questo rinconciliarsi dopo una giornata con il cielo, con le stelle, con la preghiera, con una riflessione, anche con una gratitudine, no? Che si coglie della vita di Francesco. Le donne erano tutte vestite di nero, la sera andava al rosario tutte le sere, e così erano cose che oggi non si vedono più. Oggi il paese di Molveno è diventato un luogo di villeggiatura d'alto bordo, insomma, no? Ci sono hotel da 3-4 stelle, minimo 3 stelle, e quindi si vive solo di turismo, voglio dire, non c'è più la vita pastorale, non ci sono più le mucche, no? Ci sono le maglie, no? A Molveno non ci sono più neanche una mucca, non l'ho vista. Monocultura, no? Poi le mucche sono nelle maglie, così non ci sono più. Oggi è tutto esclusivamente turismo, tutto il paese, il luogo e la località vive di turismo. Vive. Questi anziani padroni di alberghi erano loro stessi contadini a suo tempo, no? Quelli che ancora ci sono, anziani, insomma, erano contadini. Poi, insomma, io, oltre a quello che ha letto la signora, vorrei leggervi nella quarta di copertina, e c'è la conclusione, insomma, di questo, e di questa, elogio del paese, no? che ho fatto dappertutto. Poi c'è anche il pericolo, cioè le gite in montagna pericolose, c'era anche la parte di pericolosa. Il brivido. C'è anche una parte di brivido, come c'è anche una parte dedicata al sentimento, all'innamoramento, insomma, ha convinto molto bene tutti gli elementi. C'è anche un aspetto, un'analisi sociale dove ci sono delle persone che provengono da altri paesi, cioè insomma è aggiornato, è una fotografia che corrisponde ai nostri giorni. Non ho lasciato qualcuno a Malvena l'altro tempo fa. Chissà se l'hanno letto poi queste persone che poi si identificano con loro. Ce lo legge quindi, lei? Questi personaggi poi sono qui, ci sono veri, no? Ma qui c'è l'altro, sono, il nome è cambiato, no? Ma loro lo capiranno che sono loro. Backup. No? Chissà mi prendono a calci magari. Il paese della montagna e dell'acqua, del bosco, dei frutti e dei fiori, del vento e delle nubi e delle stelle. Sì, si tratta proprio di un paese così, dove si possono godere i doni della natura con tutti i benefici che essa porta con sé. Il clima è tanto delizioso che sembra un balsamo, specialmente nella stagione estiva. L'aria fine e profumata della montagna e dei boschi purifica. Il verde dei pini che ricoprono le pendici dei monti è un dolce riposo per gli occhi. Le acque pacate del lago donano un senso di pace. I colori dei fiori costituiscono una tavolozza e le stelle brillanti della notte sembrano cuori palpitanti. C'è proprio l'animo artistico. Il racconto ambientato nell'era in corso si ricollega poco dopo l'inizio con un flashback nel lontano passato, quando la vita rurale, agropastorale, nelle campagne e nelle valli di montagna costituiva l'unico mezzo di sostentamento e la gente trascorreva un'esistenza bucolica, genuina, dove tutto era legato alla natura e viveva dei suoi insegnamenti che si amalgamavano con l'esistenza ed il comportamento sociale, economico ed anche morale. Bello. Hai capito? Allora io auguro a tutti, venite tutti a Molveno, se state col libro in mano, come il Vademecum, una specie di Vademecum. Comunque, guardi, siccome dobbiamo promuovere il libro, mi piacerebbe promuovere questo libro, la lettura di questo libro, e devo dire che si legge molto volentieri e velocemente, è una bella storia che ha un suo inizio, un percorso, una fine, ed è tratteggiata con una delicatezza di altri tempi, perché effettivamente traspara anche l'animo gentile dell'autore, dove racconta anche degli incontri, più incontri, no? Incontra dei turisti, si incontra una coppia di giovani, incontra tante persone, anche delle signore, e racconta questo modo di relazionarsi e come questi incontri poi si incontrano persone che sono state all'estero, anche in questi paesi, certo, e hanno vissuto lì, come c'è già scritto qui nel romanzo, oppure che vengono dall'estero per lavorare. A Molveno vengono fiumane di gente, pullman interi di gente, signori polacchi, questi vengono negli alberghi. Poi ci sono invece quelli che vengono per lavorare, donna, gente povera che viene lì, che lavora insomma lì perché guadagna anche bene, meglio che in Polonia. Me l'ha detta una ragazza una volta della Romania, dice: vengo qua a Molveno, dice, qua lavoro la metà e guadagno doppio, mentre a casa mia in Romania lavoro il doppio e guadagno la metà. E allora anche lì si trovano tanti stranieri che sono lì per lavorare. E poi i sciori, come si dice in Trentino, i sciori, una volta si diceva, erano i signori che venivano. E adesso ci sono tanti signori che vengono, turisti da tutte le parti, e che abitano negli hotel. Ma non tutti sono signori, anche i poveretti. E qui questa descrizione del bar dove si conoscono le ragazze lì, che è un po' il cuore pulsante del paese, l'autore, diciamo, frequenta Questa è poi, per quanto riguarda i fiori, questi li ha fatti la Caterina, quasi tutti lei, perché voi non lo fate mica io questi. Ho cominciato. Non dica così adesso. Avevo cominciato a fare, ma poi l'avevi finiti te, che sono venuti bene. Perché appunto è il paese dell'acqua, dei fiori, delle montagne, quindi questo esclusivamente dei fiori. Del resto nel Trentino ci sono moltissimi altri laghi, come i Diglio di Laghi ce ne sono anche dei migliori, per dire, no? E quindi il Trentino è pieno di bei laghi. C'è un libro così, ci sono dei libri che parlano dei laghi del Trentino, i laghi del Trentino. Ci sono dei libri che esaltano proprio la bellezza di questi laghi. Direi che abbiamo tratteggiato un po' il racconto, quindi vi siete fatti un'idea di cosa può contenere questa storia, che vi invito a leggere, e se preferite c'è un libro in biblioteca, ne prenderemo anche degli altri, oppure il signor Giacomuzzi ha portato alcune copie che vengono messe in vendita con, diceva lei, vi dà in omaggio? Ah, per ogni libro acquistato, allora sì, e do in omaggio una querella anche, no? Cioè, sono copie limitate, sono 12 acquerelle e 12 copie. Benissimo. Quindi mi fa piacere che la signora. Io dico, ringrazio qui il Centro Trevi che accoglie sempre queste conferenze e presentazioni di libri, e ringrazio anche la dottoressa Trevi che presenta sempre due libri alla settimana, che quindi è molto attiva. Con i miei colleghi, guardi, stiamo adesso dovremmo darci anche un po' una calmata. Adesso vorrei chiedere alla dottoressa Trevisan, vorrei chiedere, si chiama dottoressa Valeria E. Trevisan, quel E. a che nome corrisponde? Ersilia. Ecco, mi pareva, l'avevo già letto, no? Che nome straordinario, Ersilia. Ersilia è un nome è abbastanza originale. È etrusco. Sì, Ersilia. Chi non ha mai trovato i genitori? Sì, no, i miei genitori, mi ha dato un nome romano e un nome etrusco. Dove l'avranno trovato, voglio dire, un nome così? Ma vecchio nome di una bisnonna, trisnonna. Ersilia. Anche Erminia c'è. Ersilia è un nome etrusco, perché è una radice, mi hanno detto, una radice dai sacerdoti che saltavano, da Sibire, saltare in Baccanale. Ma Ersilia non l'avevo mai sentito, no? È un nome eccezionale. No, vabbè, è usato da un autore siciliano che mi piace da matti, ce l'ho sulla punta della lingua. Uno nessuno 100.000, così a se vi pare. Uno nessuno 100.000. Pirandello, no? Pirandello. Sì, dai, diciamo tutti i nomi, la giara e tutto. Insomma. Io sono contento, io ringrazio la dottoressa Trevisan che ha illustrato così bene, ha tratto dei brani, ha letto dei brani. Insomma, che le piace questo racconto, io avevo molti dubbi, effettivamente, però è un pezzo che ci lavoravo sopra a pezzetti, poi lo lasciavo lì, ma cosa diavolo scrivo di queste robe, no? E poi poco mi è venuto, avevo dubbi che piacesse, insomma. Ma non bisogna mai negarsi certe cose, guardi, alla fine scrivere, insomma, il signor Giacomuzzi legge innanzitutto molto, e quindi poi anche il fatto di scrivere può essere sempre un piacere che non bisogna togliersi, no? Come leggere, anche scrivere, e poi è tutto un modo anche per consegnare qualcosa agli altri, no? Alla fine. Perché oggi faccio un pensiero, un'emozione. Io scrivo a mano ancora, scrivo a mano, perché mi piace scrivere a mano. Perché scrivere col computer bisogna oggi, perché sennò dopo non si può più stampare, no? Anzi, oggi c'è una diffusione di libri, appunto perché c'è il computer oggigiorno. Ognuno si può scriversi un libro, può copiarselo, può farselo da sé quasi, e poi va dall'editore, va bene, ma se lo può fare da sé, da quel computer. È ancora artigianale, no? Perché questo qui che c'è scritto qua, questi caratteri, li ho scritti io, li ho fatti io, li ho scritti poi io col computer, mica l'editore. Non è che li posso portare i libri scritti a macchina come facevo una volta, o scritti a penna, no? Allora li ho scritti io. Allora l'editore poi li ha stampati, fatto. Direi che possiamo fare un applauso.